La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:31 primi e 47 secondi. Siamo in diretta qui dagli studi della radio di Milano. Grazie per l'ascolto, in diretta in podcast. E vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vado subito a farvi la domanda. È una trasmissione ancora dedicata a quello che è avvenuto venerdì sera a Parigi. E vi faccio la domanda su cui apriremo poi i microfoni. Sono molto curioso di capire come la pensate. La domanda è semplice ed è secca, visto che si approssima il giubileo a Roma. La vostra opinione è che il giubileo va tenuto sempre e comunque, potenziando al possibile, oltre all'immaginabile, eccetera, eccetera, le misure di sicurezza, oppure proprio per certi versi, rappresentando un grandissimo evento religioso nella capitale d'Italia, dichiarato dal Papa e così via, a vostro giudizio bisognerebbe procedere a valutazioni di ordine diverso? Non conta come la penso io, a me interessa capire con le vostre telefonate, i vostri sms al 349-238-6666 come la pensate voi, sia in relazione all'evento sia in relazione al timore che avete rispetto alle misure di sicurezza che possano o meno prevedere tutto l'imprevedibile di attacchi di questo tipo. È vero da una parte che l'ISIS o Daesh dichiara che in realtà a essere colpito come a Parigi sarà chi partecipa ai bombardamenti in contro ISIS e Daesh, e noi, come è noto, non partecipiamo ai bombardamenti. Detto tutto questo, mi interessa capire come la pensate. Ricordo che le opinioni avanzate sin qui sono state diverse. Per esempio, l'autore di uno dei due libri dedicati alle finanze vaticane, Gianluigi Nuzzi, che tra l'altro alle 17:45 lo presenta proprio qua a Milano, a Palazzo Affari, a Palazzo Mezzanotte, ha dichiarato che a sua opinione bisognerebbe pensare a sospendere il giubileo. Altri giornalisti, per esempio Gianni Riotta, hanno detto no, sarebbe un errore, come accettare che si accoglie la sfida della paura lanciata dal terrorismo jihadista sunnita. Altri politici, come l'onorevole Esposito del PD, hanno detto assolutamente no, per l'Italia sarebbe inaccettabile. Sapete che il Vaticano invece non ci pensa neanche da questo punto di vista. Quindi, come vedete, le opinioni sono diverse. Mi ha molto colpito questa mattina, per esempio, però, politici veneti, il governatore del Veneto Zaia, abbiano dichiarato: noi qui abbiamo timore, per esempio, per il carnevale a Venezia, qui bisognerà procedere a identificare tutti, perché vista la densità della gente che si troverà a Venezia come in ogni anno per il carnevale, sarebbe impensabile, ma potrebbe provocare una condizione fuori da ogni controllo per rischio e minaccia, l'idea che potessero immaginare di venire anche a fare un attentato a Venezia per il carnevale. E se vale per il carnevale, mi sono detto, sentiamo che cosa pensano gli italiani per questa evenienza che è molto più rilevante dal punto di vista internazionale, che è appunto il giubileo a Roma. Nel frattempo che componete il numero di telefono, vi do alcune notizie di giornata. Innanzitutto è ancora in corso il G20. Al G20 stamattina il portavoce di Putin è ad Antalya in Turchia, come sapete. Stamattina il portavoce di Putin ha detto una grande ma scomoda verità dopo l'incontro, il primo incontro che c'è stato, il primo scambio di opinioni ieri tra il presidente Obama degli Stati Uniti e Putin. Il portavoce di Putin ha detto nella realtà, a sentire le dichiarazioni, tutti sono d'accordo nel potenziare l'impegno militare contro Daesh ISIS, ma nella realtà la valutazione della Russia è che risulta impossibile stringere un vero patto concordato, operativo, militare con l'Occidente, perché l'Occidente risulta a noi in questi contatti completamente diviso. Ogni singolo grande paese dell'Occidente ci fa valutazioni diverse in ordine alle parti in causa. Allora, questa scomoda, ma a mio giudizio grande verità detta dal portavoce del presidente russo, e lo dico io che non sono sospetto di essere filorusso, perché io capisco la Russia che si è infilata con gli scarponi sul terreno in Siria e con i suoi aerei, prendendosi un grande ruolo per il futuro dell'intero Medio Oriente, non solo il futuro della Siria, ma frapponendo la propria presenza militare, politico ed economica in quell'ambito rispetto all'estremismo jihadista sunnita, da una parte ISIS, dall'altra anche quello delle formazioni come al-Nusra, che sono a propria volta contro Assad e impegnate sul terreno e finanziate dall'Arabia Saudita, dal Qatar e care anche alla Turchia, e dall'altra parte rispetto agli sciiti impegnati sul campo, cioè Hezbollah e l'Iran, che ha le proprie truppe in Siria. Allora, la Russia si è presa questo spazio, ma io li capisco, perché loro hanno da sempre il problema dell'estremismo musulmano in Cecenia, nel Caucaso, e si sono presi un ruolo che non hanno mai avuto neanche ai tempi della Guerra Fredda. Detto questo, loro ce l'hanno un ruolo e un'idea in testa. L'Occidente, nella realtà, in questi anni ha assistito, in bella, indifferente, a una serie consecutiva, prima di conseguenze dei propri errori post 2001. E diciamola tutta, come scrive, se volete approfondire andate sul sito della rivista Italiana Difesa, troverete un articolo di questa mattina del direttore Pietro Batacchi in cui ricostruisce per filo e per segno come l'ISIS Daesh, per come lo conosciamo, non esisterebbe in realtà, proprio tecnicamente non esisterebbe, se gli Stati Uniti e l'Occidente, lo dico e lo riconosco anch'io che ho sostenuto gli interventi post 2001 come giornalista, come editorialista, opinionista, però poi gli errori che sono stati compiuti non avendo in testa uno schema politico affermabile per il futuro politico dell'Iraq in quell'area e la drastica debatificazione, come si dice, cioè buttare fuori da tutti gli incarichi di potere militare, dell'intelligence, della diplomazia, tutti coloro che appartenevano alle forze del Ba'ath, cioè il partito di Saddam Hussein, il che ha significato consegnare l'Iraq alla zona di influenza sciita, cioè dell'Iran. Ecco, tutto questo ha in realtà determinato il fatto che l'ISIS e Daesh esistono, perché anche se tutti i giornali parlano solo del califo al-Baghdadi, eccetera, eccetera, nella realtà tutti coloro che fanno parte della cerchia direttiva militare, politica e delle risorse economico-finanziarie di Daesh, cioè la novità rispetto ad Al-Qaeda, una bozza di Stato vero, sono tutti ex alti ufficiali del regime di Saddam, che hanno portato la propria intelligence, capacità, anche capacità di comunicazione, come si vede nei filmati, le armi, gli agganci per procurarsele, la maniera per vendere il petrolio, che infatti si è andato via via estendendo in tutta l'area settentrionale dell'Iraq non controllata dai curdi. Ecco, tutti questi che sono la vera spina dorsale del Daesh nascono dall'errore americano e occidentale. Allora, e questo errore si aggiunge poi al fatto che noi non abbiamo saputo cosa dire niente negli anni al fatto che l'estremismo sunnita e sciita entrava in scontro diretto, micidiale, con migliaia di morti negli attentati proprio in Iraq, che si estendeva poi nella ricerca di un accesso al mare diretto dell'Iran e degli Hezbollah in Libano. Vedete l'attentato sanguinosissimo precedente di 72 ore a Beirut rispetto a quello di Parigi, anche se di quello di Beirut noi non ne parliamo praticamente, ed è un errore gravissimo perché è stato il più grave attentato da anni ed è la prima volta da anni che ISIS fa cose simili in Libano. Dopodiché questo ha portato all'intervento della Russia e dopodiché però l'Occidente, la Francia, l'Italia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, su ciascuno degli attori di questa partita, l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia, l'Iran e poi la Russia. Nella realtà, se noi ci chiedessimo, ma noi abbiamo un piano praticabile per il dopo Siria? La risposta, ohimè, e qui concludo, è amaramente quella che ci ha dato il portavoce di Putin stamattina. Ogni singolo paese occidentale crede di poter regolare le proprie convenienze politiche, i propri rapporti in una maniera diversa con ciascuno degli attori di questa partita. Aggiungo, per quello che mi riguarda, che secondo me l'Italia, che non fa parte storicamente degli eventi siriani, ricordiamoci che Siria, Libano, eccetera, eccetera, nascono da accordi tra Gran Bretagna e Francia, Forse dovrebbe essere un po' più interessata alle azioni intese a ripulire del califfato la Libia, che è del resto il paese a noi più vicino, quello rispetto al quale abbiamo esperienze storiche discutibilissime, ma le abbiamo, e dal quale provengono poi i flussi maggioritari che sbarcano sulle nostre coste. Ma queste sono le mie opinioni. Dico solo che si è aggiunta poi l'opinione del presidente autorevole degli Stati Uniti, in tarda mattinata, sempre da G20, che ha detto sinceramente: se gli Stati Uniti volessero impegnarsi per liberare Raqqa, e ha fatto un elenco di città siriane occupate da ISIS, potremmo fare, ma ci candideremmo a ripetere gli errori che abbiamo già commesso in Iraq. Quindi noi rafforziamo la nostra cooperazione con la Francia e con i paesi che condividono questo punto di vista. Cioè il punto di vista è quello di azioni dall'aria, non sul terreno per il momento, prendendo atto che a questo punto ci penseranno i russi e naturalmente i peshmerga, che sono impegnati in prima fila, e anche rispetto a quelli noi gli abbiamo dato un po' di armi vecchie e li lasciamo dove stanno. Questa è la fotografia della giornata. Mentre in Francia continuano le irruzioni della polizia, sono state oltre 165 fino a questo momento, da sabato mattina, alla ricerca di filo jihadisti. Ne sono stati arrestati fino a questo momento una trentina degli oltre 100 che sarebbero ricercati, con la scoperta di molte armi, tra cui un RPG, quindi armi anche pesanti, armi anticarro e così via. Non è ancora però arrivata al nulla la caccia che si è svolta soprattutto in Belgio in mattinata. Si è pensato a un certo punto che le forze speciali belgi fossero sul punto di arrestare quello tra i terroristi che attualmente viene considerato una delle figure più rilevanti che manca all'appello, cioè Abdelhamid Abaoud, il capo della cellula di Verviers, protagonista di molte vicende terroristiche in questi anni, però questa mattina è praticamente fallito questo blitz, e quindi risultano, se poi sono diffuse voci su un ricercato che era passato per il nord Italia e il Piemonte, che sono state poi smentite. Ecco, l'ultima notizia adesso è che durante il raid a Molenbeek, che come avrete capito è la parte di Bruxelles in cui si concentra oltre il 40% dei musulmani e storicamente terreno fertile per chi andava in Siria a combattere, ci sarebbero stati, informa adesso l'ANSA, due arrestati a Bruxelles, sospettati di avere parte nella ideazione degli attentati di Parigi, e lo riferisce appunto la procura federale. Questa è la fotografia fino a questo momento degli eventi collegati agli attentati. Iniziamo a sentire qual è la vostra opinione però in relazione alla domanda: cosa facciamo del giubileo? Lo teniamo o non lo teniamo? Sentiamo Marco da Modena. Esatto. Ciao Giannino, la massima stima di te. Grazie. Allora, io sono per sospenderlo. Perché? Perché noi verso questi jihadisti, come li chiamiamo, gliene abbiamo fatti di tutti i colori. Caramelle da più di un anno, che caramelle di qua di là. Pensiamoci che non ce li fanno vedere per televisione, però quante donne, quanti bambini che rimangono anche là feriti, via. Il pretendere che a noi non capiti mai niente, basta solo uno che sia abbia il cappotto, lì sotto potrebbe avere delle bombe. Cioè è talmente così facile, secondo me, si potrebbero già preparare adesso per 3 mesi, mettere delle bombe da qualche parte, poi quando è il momento giusto te le fanno esplodere. Cioè è talmente, prendere le persone alle spalle è troppo facile. Quindi non vogliono andare là a metterci dei militari, non ci vogliamo rischiare, continueranno così. Quando possono, quando meno te l'aspetti, loro lo faranno. E questo qua sarà uno, ne succederà degli altri, secondo me. Allora, tu esponi un'opinione chiara. Inizio a leggere alcuni sms, poi ci risentiamo tra un minuto con le altre telefonate e altre vostre opinioni. Per esempio, un ascoltatore ci dice: non penso sia giusto fermare o sospendere il giubileo. L'ISIS non ha mai colpito obiettivi religiosi, vero anche che non c'è solo Roma. Altri, di opinioni diverse. va tenuto tutto, saremo comunque sempre vulnerabili, fino a quando l'Islam non vivrà la propria rivoluzione illuminista non possiamo fermarci. Beh, ci diamo un periodo di tempo lungo allora, visto le parole a questo proposito pronunciate proprio dall'imam di Parigi, che è stato durissimo nel commemorare e nell'intonare la Marsigliese insieme al rabbino stamattina, al rabbino capo di Parigi. L'imam di Parigi ha detto: in effetti c'è un grave problema relativo al fatto che la ragionevolezza dell'illuminismo islamico si è fermato per l'azione di quello che avviene in questi anni, che è una missione da parte dell'imam di Parigi di un certo peso. È ovvio che in Francia si capisce per certi versi di più e che parole simili forse non verrebbero dal rappresentante delle Lukoil italiane, però sono state molto apprezzate sui giornali francesi e sono in linea con quello che ci dice questo ascoltatore. Torniamo tra un minuto con il resto delle vostre opinioni. La versione di Oscar. Allora, altre opinioni tra gli sms, poi torniamo alle telefonate. Da ascoltatori sul giubileo tenerlo meno. Giannino, io sono per proseguire con il giubileo. Si combatte anche per messaggi, questo sarebbe un inequivocabile resa incondizionata se decidessimo di non tenerlo. Simone di Verona ci dice: a prescindere dagli attentati, secondo me il giubileo non bisogna tenerlo. Altri, Damiano da Roma: il giubileo sarebbe solo una scusa, se ci vogliono attaccare non sarà il suo annullamento a far cambiare loro idea. Altri non si sorprendono che l'informazione, non solo italiana ma europea, occidentale in generale, non dia una riga magari o non approfondisca abbastanza se ci sono stragi come quella avvenuta a Beirut, purtroppo, dico io, perché se il fenomeno è complessivo bisogna anche rappresentarlo nella sua complessità, cioè laddove colpiscono è un segno della loro strategia. Poi c'è una lunga coda della polemica italiana di oggi che non vi ho riferito. Stamattina è scoppiata una infuocata polemica che è ancora in corso per le dichiarazioni di Alfano rese stamattina contro Salvini. Il ministro all'interno ha detto: Salvini non riesce a nascondere il fatto che non è contento perché non ci hanno ancora colpito, perché vuole speculare sui voti. Salvini ha reagito durissimamente a questa dichiarazione, che a me pare fuori dal mondo da parte del ministro degli interni, a dire la verità, e gli ha detto: prima ti querelo e poi lancio l'hashtag Alfano dimettiti, che per ore e ore è stato l'hashtag su Twitter assolutamente predominante e naturalmente ha infuocato con questa polemica Alfano, non so che pro il dibattito politico interno. Allora continuiamo invece con le vostre telefonate. Livia da Milano, come la pensi, Livia, sul giubileo? Buonasera Giannino, la seguo spesso e volentieri. Sul giubileo no, io ritengo che non vada sospeso, perché altrimenti dobbiamo sospendere il Carnevale di Venezia, dobbiamo sospendere le partite di calcio, dobbiamo sospendere le Olimpiadi, dobbiamo sospendere allora tutte le situazioni dove ci sono incontri di persone, dove ci sono eventi ludici. Questo vorrebbe dire... Aspetta Livia, gli esperti di sicurezza notano una differenza, cioè mentre per esempio lo Stade France non sono riusciti a entrare, i tre che se fossero entrati con le cinture esplosive avrebbero creato una cosa di incalcolabili proporzioni sotto gli occhi del Presidente della Repubblica mentre giocavano le squadre leader dei due paesi europei, Germania e Francia, perché appunto in un luogo chiuso i controlli di sicurezza si possono fare anche con 100.000 persone. Quando ci sono ovviamente masse all'aperto in città è molto diverso, però io mi limito a dire, capisco come la pensi, mi limito a dire solo che naturalmente c'è una differenza rispetto ai tipi di controlli che si possono fare. Agostino da Milano, come la pensa? Sì, buonasera. Comunque io sono assolutamente favorevole che si mantenga, perché il discorso è questo: a San Pietro ci sono tutte le domeniche dai 50 a 100.000 persone. Giusto. Cosa cambia? Giusto. Cosa cambia? No, cambia qua. Semplicemente, per così dire, forse ai loro occhi l'emblematicità di un evento mondiale, però questo naturalmente è una pura supposizione. Però capisco Agostino che dice: però se volessero allora ogni domenica potrebbero. Pierpaolo da Bologna, come la pensa? Io per quanto riguarda il giubileo solamente devo andare avanti, sì. Però per quanto riguarda invece anche il ascoltatore di prima, era comunque quello che volevo dire, è che o riscriviamo la storia e diciamo che gli alleati, gli americani, ma gli alleati in generale, sono stati degli assassini e quindi sono venuti qua in Italia da assassini, ci hanno liberato, ma sono degli assassini, o se non la riscriviamo e la piantiamo come ci hanno sempre insegnata, quello che è stato fatto per il nazismo, che trucidava, occupava popoli e si prendeva sempre più un'area estesa nella sua zona, sì, dobbiamo farlo adesso con l'ISIS, perché non vedo alcuna differenza storica. Pierpaolo, scusami, io un po' la vedo, io che ho sostenuto gli interventi del 2000 post 2001, ripeto, e che ho visto gli errori che abbiamo fatto, senza di cui non ci sarebbe l'ISIS, ma non perché lì sono poveri, come dicono, semplicemente non avremmo regalato lo stato maggiore di Saddam ad al-Baghdadi, che da solo non è in grado di farla questa roba, mentre quelli sono in grado, questo è il punto. E detto questo, lì ci sono interessi in campo sunniti, c'è il jihadismo sunnita finanziato da Arabia Saudita, Qatar e caro alla Turchia da una parte, che lotta contro gli alawiti di Assad e che è contrapposto invece al tentativo sciita iraniano e di Hezbollah di occupare Siria e in buona sostanza l'Iraq. L'Iraq sciita è già una quasi dependance dell'Iran. E c'è l'interesse russo a impedire tutto questo, naturalmente dicendo: guardate, siamo noi la nuova potenza regionale. Noi con chi bombardiamo? Al servizio di quale di queste triangolazioni? Perché senza aver chiaro questo, noi facciamo solo pasticci ulteriori. Mentre credo che in Libia sia meno complicato avere una cornice internazionale che consenta all'Italia anche di fare operazioni. Ma anche, perché io lì l'Italia non riesco a capire, mettiamo gli scarponi sul campo, mandiamo i nostri in divisa e poi ci scopriamo quali parti in commedia giochiamo, con quali di questi attori che hanno interessi terrificanti propri da perseguire. Non lo so, può essere che mi sbagli, ma rispetto alla liberazione dell'Europa dal nazismo e dal fascismo, secondo me è un po' diverso, ma non sto dicendo che sono meno terroristi e tragicamente determinati a non contare le vittime pur di ottenere il loro obiettivo. Mauro, dalla provincia di Cuneo, come la pensa? Buongiorno, io, posto che a me del Giubileo in sé non, onestamente non può fregare di meno, però non possiamo, credo, cedere alla paranoia, quindi paradossalmente io fino all'altro ieri pensavo che fosse giusto non farlo, invece oggi penso... Di fronte alle minacce, dice sì. Penso ma di queste sì. Teste di asciugamano, secondo me... Sì. Allora, ad Alba, io sono di Alba, provincia di Cuneo, sì, è appena finita la Fiera del Tartufo, con ogni domenica centinaia di migliaia di persone ammassate in un chilometro e mezzo di strada. È lì che controlli si fanno. Ad Alba c'è la Ferrero, azienda dolciaria. No, no, ma è chiarissimo quello che dici, cioè non è che quindi per Mauro bisogna farlo proprio per quello, senza... Allora, mi dispiace non poter mandare in onda perché è finito il tempo. Mustafa da Modena mi diceva in una riga: Mustafa è chiaramente musulmano, ISIS è il primo nemico dei musulmani in Siria, hanno buttato giù anche le moschee. Infatti il problema è che c'è uno scontro interno al campo musulmano. Allora, intanto continuate con Radio 24, appuntamento domattina alle 8:15 con me, Alessandro Milan. Attenti a noi due.